Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 4. Mi diedi da fare per trovare una sistemazione. Quando ne parlai con l'avvocato che mi aveva difeso, egli si offrì di assumermi come domestica in casa sua. Lowell Schrader, così si chiamava, era un uomo straordinario. Pesava oltre 90 kg, era alto 1,80 m, aveva splendidi occhi bruni e capelli neri piuttosto lunghi, che iniziavano a striarsi di bianco. Era un professionista di successo ed era stato membro dell'Assemblea legislativa del Missouri. Negli ultimi anni aveva dedicato la maggior parte del suo tempo alla difesa di lavoratori patrocinio di cause impopolari. All'epoca in cui lo conobbi, si interessava soprattutto del problema della disoccupazione, in particolare tra le donne sole. Quando iniziai a lavorare per Schrader, sua moglie era già morta da diversi anni ed egli abitava con la madre e con il figlio quindicenne. Durante le prime 2 settimane non fece molta attenzione a me, o almeno così mi parve. Sua madre cucinava e io sbrigavo tutte le altre faccende di casa. Alla fine della 3ª settimana la madre andò nell'est a trovare un altro figlio. Forse fu lo stesso Schrader a spingerla, non so. In ogni caso, il giorno stesso della sua partenza, l'avvocato mi disse dolcemente, ma con molta naturalezza e senza tanti fronzoli, che mi desiderava. Quella fu la prima di molte notti che trascorremmo insieme. Tuttavia nessuno dei due formulò mai l'ipotesi di una relazione duratura. In quel momento ci desideravamo a vicenda, perciò ci prendemmo, ma non rivestimmo di falso romanticismo la nostra passione e non parlammo mai di un futuro insieme né vi pensammo. Qualche tempo dopo la madre di Lowell tornò. Era una donna di 70 anni, con gli occhi azzurri, gentile ma severa, capace di esercitare un tirannico dominio su tutta la casa. Pensava tutto in funzione della cucina, amava far da mangiare e si offendeva se mi offrivo di aiutarla. Qualche volta riusciva a essere veramente sgradevole, addirittura insopportabile, ma io mi rendevo conto di essere un'intrusa con un impegno temporaneo e facevo del mio meglio per mostrarmi paziente e cortese. Alla fine diventammo grandi amiche. Lowell Junior era un bel ragazzo, alto e taciturno, che provava affetto e suggestione per suo padre. Andavamo spesso insieme a fare gite in auto e passeggiate, oppure a nuotare. La sua ambizione era diventare avvocato come il padre. Con la nonna era sempre gentile e premuroso, e lei lo adorava. Per qualche settimana, anche dopo che Schrader e io eravamo diventati amanti, continuai ad andare a dormire nella mia stanza. Vi rimanevo finché, presumibilmente, i familiari si fossero addormentati. Poi mi trasferimmo in quella di Schrader. Ma dopo un po' cominciammo ad andare a letto insieme e nessuno ebbe nulla da ridire. Nel periodo in cui stetti con Schrader, feci conoscenza con alcuni personaggi di gran fama, vere e proprie celebrità nel mondo dei disoccupati e dei vagabondi. Le due figure più illustri erano indubbiamente quella del generale Jacob S. Covey di Massillon, Ohio, che nel 1894 guidò la celebre marcia dell'esercito di Coxey, e quella del dottor James Hetz Howe, altrimenti noto come l'Uomo Milionario, che aveva istituito le università dei vagabondi un po' dappertutto in America. Fu Schrader a impartirmi le prime nozioni tecniche sul problema degli obo. Mi spiegò che c'erano da 1,5 a 2 milioni di vagabondi a spasso per il paese e che nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di uomini o di ragazzi. Secondo le stime più prudenti, la percentuale di donne e ragazze si aggirava intorno al 5 per mille. Insomma, c'era all'incirca una donna ogni 200 uomini. Schroeder tentò anche, a mio uso, una classificazione dei vagabondi. C'erano gli obo, i lavoratori migranti, uomini e donne senza legami, che viaggiavano in cerca di un'occupazione. Poi c'erano i vagabondi, giramondo, come me, gente ugualmente priva di legami, ma anche senza soldi, che andava in cerca di emozioni e di avventure. Infine c'erano i barboni, la categoria meno numerosa ma più problematica, formata da drogati ed alcolizzati, che ormai avevano rinunciato anche ad una parvenza di rispettabilità. A questa categoria appartenevano i frequentatori abituali delle bettole, i poveracci, che spesso si vedono distesi a terra nei vicoli, nei parchi, nei bar. I barboni, mi spiegò Schroeder, non sono come i vagabondi, che si abbandonano all'alcol occasionalmente. Quasi tutti i vagabondi bevono di tanto in tanto, ma i barboni sono veri e propri alcolizzati, che se ne fregano del lavoro e della società. Fortunatamente questa categoria è poco numerosa, soprattutto tra le donne. Il generale Coxey aveva 70 anni quando lo conobbi. Eppure era il ritratto della forza e della salute. I suoi occhi blu vivacissimi e il suo portamento eretto incutevano rispetto a tutti. Mi raccontò la storia della sua famosa marcia. Nell'autunno del 1893 stava recandosi in una cava di pietra che distava circa 5 miglia da Massillon, nell'Ohio. Le strade erano così dissestate e mal tenute che i cavalli sprofondavano nel fango e stentavano a tirare il calesse. Era un vero scandalo, pensò allora, che 3 milioni di uomini fossero costretti a restare inoperosi mentre avrebbero potuto essere impiegati nella costruzione di buone strade e di altre opere di pubblica utilità. Quando tornò a casa, Coxey sedette alla scrivania e redasse un piano per finanziare la costruzione di strade e di altre opere pubbliche. Era basato sulla quinta clausola dell'ottava sezione del primo articolo della Costituzione degli Stati Uniti, che attribuisce al Congresso la facoltà di battere moneta, di determinare il valore della moneta nazionale e di quelle estere e di fissare gli standard per i pesi e per le misure. Il piano di Coxey prevedeva che attraverso banche comunitarie assoggettate alle leggi statali e con denaro ottenuto mediante l'emissione di obbligazioni comunitarie venticinquennali esenti da interesse, il governo finanziasse agricoltori, commercianti, industriali, società di vario genere, consorsi di monopolio e amministratori. I finanziamenti avrebbero dovuto essere destinati alle opere pubbliche, alla costruzione di strade e di case, all'impiego dei disoccupati. Il passo successivo consistette nell'attirare su quel progetto l'attenzione di tutto il paese. In quello stesso autunno Coxey si recò alla Fiera Mondiale di Chicago e lì conobbe Carl Brown, un vignettista assai ben informato sui problemi monetari. Insieme i due progettarono una marcia dei disoccupati su Washington. La marcia avrebbe dovuto avere inizio il 25 marzo per concludersi il 1 maggio con un comizio sulla scalinata del Campidoglio. Non appena l'idea fu annunciata pubblicamente, i disoccupati di tutto il paese, dalla costa orientale a quella occidentale, ne vennero a conoscenza e si diedero da fare per organizzare anch'essi la loro marcia sulla capitale. Complessivamente furono circa 5.000 quelli che arrivarono a Washington, anche se non tutti riuscirono a farcela per la data fissata. Il grosso dei manifestanti impiegò 35 giorni per compiere il viaggio da Massillon e giunse a Washington il 30 aprile, in modo da potersi radunare sulla scalinata del Campidoglio, il 1 maggio. Fu inoltrata una richiesta a Crisp e a Stevenson, rispettivamente presidente e vicepresidente della Camera dei rappresentanti, affinché concedessero a Coxey il permesso di parlare dalla scalinata del Campidoglio. Il permesso non fu concesso, ma neppure negato, e il giorno seguente l'esercito dei disoccupati marciò lungo la Pennsylvania Avenue fino al Campidoglio, poi si fermò in una strada laterale, mentre Coxey si avviava verso l'edificio. Quando giunse ai piedi della scalinata, si trovò la strada sbarrata da un intero reparto di polizia. «Non potete parlare qui», gli fu detto. I poliziotti non gli permisero neppure di leggere la dichiarazione di protesta che aveva preparato. Lo portarono via, fuori dall'area del Campidoglio, poi lo lasciarono andare. Carl Brown e Christopher Columbus Jones, che erano riusciti a entrare nell'area del Campidoglio, furono arrestati. Tre giorni dopo, però, fu arrestato anche Coxey, che insieme ai suoi compagni fu accusato di aver calpestato l'erba e di aver arrecato danni ai cespugli. I tre furono processati e condannati a $5 di multa e a 20 giorni di prigione. Dal piano elaborato da Coxey fu ricavato un progetto di legge che fu presentato alla Camera dei rappresentanti l'8 gennaio del 1895, per concessione di William Jennings Bryan, presidente di una sottocommissione parlamentare per il bilancio. Era la prima volta in assoluto che i disoccupati americani facevano appello direttamente ai legislatori, affinché ponessero rimedio all'ingiustizia e prevedessero la possibilità di impiegare nella realizzazione di opere pubbliche la forza lavoro non richiesta dall'industria. Nel 1914 Coxey organizzò un'altra marcia su Washington. Questa volta gli fu concesso di tenere un comizio nell'area del Campidoglio ed egli si rivolse alla Camera e al Senato, perorando sempre la medesima causa e la medesima proposta di legge che sino a oggi è stata presentata al Congresso 11 volte. Il dottor C.S. Howe sembrava un Cristo avvizzito, con la barba corta e la pelle giallastra, gli occhi azzurri un po' sbiaditi, che gli davano un'espressione contrita e la voce dolce, quasi carezzevole. Smentivano il tono sarcastico e la durezza delle sue parole. Suo nonno, che si chiamava Hetz, aveva costruito il grande ponte omonimo sul Mississippi, a St. Louis. Suo padre era stato presidente della compagnia ferroviaria Wabash. Howe amava i derelitti, gli uomini e le donne senza un tetto e senza un lavoro. Così aveva usato il suo denaro per affittare vecchie sale in cui essi potessero riunirsi e aveva portato in quelle sale professori, leader sindacali e radicali, medici, avvocati, economisti, insomma i migliori esperti che potessero parlar loro della situazione sociale ed economica e discutere dei loro problemi. A Chicago, a Los Angeles, a St. Louis, a Pittsburgh e a New York, ovunque vi fosse qualcuno disposto a organizzare conferenze e ad acquistare il latte, le ciambelle o il caffè e i panini dolci che non dovevano mai mancare alle conferenze, si poteva contare sul dottor Howe per pagare i conti. Egli aveva dato ai disoccupati una tribuna, un luogo in cui potevano esprimersi. Li aveva resi consapevoli della necessità di acquisire una educazione. Ora essi sapevano che la conoscenza era l'unico mezzo mediante il quale avrebbero potuto liberarsi. Conobbi anche alcune vagabonde, e in particolare ne ricordo tre. Tra quelle che mi colpirono di più, Dorothy Mack, Lena Wilson e Peggy, una gamba e mezza. Dorothy Mack era una ragazzona di 24 anni, con gli occhi scuri e i capelli all'indietro come un uomo. Era sulla strada da 5 anni, di solito viaggiava con l'autostop, Era facile e divertente, diceva, anche se spesso aveva avuto guai con gli uomini. Più di una volta l'avevano scaricata in aperta campagna perché non aveva voluto cedere alle loro voglie. Aveva lavorato come dimostratrice nei supermercati e nei grandi magazzini per ditte che vendevano ogni sorta di prodotti, mobili, cosmetici, detergenti e così via. A sentir lei potevano darle qualsiasi prodotto e, purché avesse un po' di spazio a disposizione in un negozio, riusciva sempre ad attirare gente e a vendere. Ma non le piaceva tenere un lavoro troppo a lungo. Dopo qualche mese si stufava e tornava sulla strada. Lena Wilson era alta, aveva i capelli rossi, gli occhi azzurri e uno sguardo gentile. Era un tipico esempio di agitatrice da strada, di attivista itinerante. Lavorava per il Partito Socialista da un quarto di secolo e ormai si considerava una militante a tempo pieno. Aveva arringato le folle in quasi tutti gli stati dell'Unione. Come la maggior parte degli agitatori, pagava raramente il biglietto sul treno. Le ferrovie derubano i lavoratori, diceva. E perché noi non dovremmo derubare le ferrovie? Era sulla strada da 35 anni e aveva viaggiato con gli uomini più rudi e duri. Aveva dormito nei carri merci e all'addiaccio, con ladri e assassini. Peggy, una gamba e mezzo, era nata nei bassifondi di Chicago, in una famiglia con altri 10 figli. A tagliarle la gamba era stata l'elica di una barca a motore, dalla quale era caduta, ma narrò per filo e per segno la sua vita. Ma credo che quell'incessante ripetersi di avventure sessuali possa contribuire ben poco alla storia delle sorelle della strada. Peggy era una prostituta, non soltanto una vagabonda, e quando aveva bisogno di fare un po' di soldi, vendeva agli uomini il suo povero corpo mutilato. I clienti, a quanto pare, non gli mancavano. Molti anni più tardi la incontrai di nuovo, per caso, in un grande magazzino di Chicago. Era ben vestita, allegra, felice. Aveva smesso di battere, si era sistemata con un uomo, alla fine l'aveva anche sposato e non sembrava rimpiangere la vita di strada. Una mattina di primavera, mentre stavamo facendo colazione, arrivò Ena, che mi parve in ottima forma e in buona salute. Si era sviluppata parecchio dall'ultima volta che l'avevo vista e aveva un'aria raggiante, contenta. Il tribunale dei minori l'aveva rimandata a casa già da qualche mese, ma lei non aveva resistito a lungo. Intanto si era fatta il suo primo amante, un giovane poeta con il quale aveva vagabondato fino a St. Louis. Voleva che andassi con loro a New York, dove il suo amico sperava di trovare un lavoro e un editore che pubblicasse i suoi versi. L'idea mi attirava. Da molte settimane ormai Schroeder non mi portava più con sé alle riunioni e alle feste, e più di una volta era rimasto fuori tutta la notte, senza dare alcuna spiegazione. Evidentemente si era stancato di me, oppure aveva un'altra donna o tutte e due le cose insieme. Quando gli comunicai che me ne andavo, fu un sollievo per entrambi. Libri ribelli. Libri ribelli.